Ciao, siamo in collegamento con Antonio Mazzeo, un attivista No Mos, e cogliamo l'occasione per fargli una serie di domande. Partiamo dopo aver dato una lettura di un tuo recente articolo sull'Internazionale, dicendo che l'Italia e la NATO vanno oltre il sostegno all'Ucraina e che sono veri e propri co-belligeranti. Ci puoi spiegare il perché? Sì, perché non c'è soltanto l'invio di armi quotidiano a favore delle forze armate ucraine, ma di fatto l'Italia è presente con propri reparti, con proprie strutture militari a ridosso del confine con l'Ucraina, in un'azione di pressing aggressiva rispetto alla Russia. Abbiamo l'esercito italiano in Lettonia. Abbiamo i cacciabombardieri italiani in Romania, ma soprattutto quotidianamente dagli scali italiani partono aerei che fanno vere e proprie operazioni di intelligence e sono vere e proprie operazioni di guerra. Non dimentichiamo il ruolo chiave che ha assunto la base di Sigonella in Sicilia per le operazioni di intelligence delle forze armate degli Stati Uniti d'America e della NATO. E quando parlo di operazioni di intelligence, non ne dobbiamo assolutamente sottovalutare la rilevanza anche dal punto di vista degli effetti nel conflitto, degli effetti diretti. Sono gli stessi americani, lo stesso Pentagono a dire che probabilmente l'intelligence fornita alle forze armate ucraine è stata più determinante per alcuni successi ottenuti nel campo di battaglia, molto più delle stesse armi che l'Italia, la NATO, gli Stati Uniti e altri paesi dell'Unione Europea hanno inviato. Non dimentichiamoci che alle operazioni di intelligence contribuiscono direttamente i reparti dell'aeronautica militare italiana, con propri aerei spia che dall'aeroporto di Pratica di Mare raggiungono tranquillamente la Crimea, il Mar Nero, al confine con la Bielorussia e con la Russia, di fatto con operazioni che, ripeto, sono determinanti per comprendere anche cosa sta accadendo oggi nel conflitto in Ucraina. E chiaramente qui adesso, al di là della questione che esiste un segreto militare, ma credo che in parte forse tu ci puoi spiegare l'entità e la tipologia degli aiuti militari all'Ucraina che l'Italia fornisce. Beh, intanto, paradossalmente, mentre Washington ha dato un elenco, sulla qualità, sulla tipologia e sulla quantità di armi inviate, l'Italia ha sottoposto, questo a segreto militare. Ed è già un fatto gravissimo perché abbiamo una co-belligeranza anche perché abbiamo uno stato di guerra nel nostro paese che impedisce assolutamente la trasparenza per comprendere il tipo di armi che stiamo inviando. Quello che sappiamo è che si tratta di armi anticarro, si trattano di missili, si tratta di sistemi che hanno una funzione di intelligence e di controllo delle operazioni. Sono sistemi aggressivi, sono sistemi di guerra e, ripeto, è gravissimo che sia stato sottoposto a segreto militare quando altri paesi, anche dell'interno della NATO, hanno assolutamente mantenuto la trasparenza anche rispetto, ai propri cittadini su quello che stanno inviando e anche il valore economico. Il Pentagono quotidianamente emette comunicati stampa, sulla tipologia di armi e anche sul loro valore finanziario. È gravissimo che questo non avvenga nel nostro paese. In nome della pace preparano la guerra. Cosa ci puoi dire della politica di riarmo italiana sancita dall'aumento al 2% del PIL della spesa militare sotto l'influsso della guerra in Ucraina, ma sicuramente necessaria anche per gestire le sempre più impegnative missioni militari all'estero dell'Italia? Ma poco fa dicevo che siamo co-belligeranti perché di fatto c'è un diritto di guerra anche nel nostro paese. con un solo colpo di penna, con un solo voto, noi oggi abbiamo raddoppiato quasi la spesa militare, si parla di qualcosa come 23-24 miliardi che potrebbero essere già spesi a partire dal prossimo anno. Questo comporterà di fatto un'economia di guerra nel nostro paese, significherà trasferire enormi risorse finanziarie dai servizi sociali, dalla scuola, dall'istruzione, dalla sanità, direttamente al complesso militare industriale italiano. Questo con effetti che saranno devastanti sulla vita e sulla pelle di milioni di cittadini che saranno ulteriormente spinti verso l'indigenza. Questo è lo stato di guerra, ovviamente. Chi se ne beneficia? Se ne beneficiano le grandi industrie militari, penso Leonardo, Fincantieri, che già ottengono enormi commesse da parte del governo italiano, se ne avvantaggiano anche le transnazionali del settore energetico, che stanno accumulando profitti come non mai, dove di fatto stanno operando in modo speculativo. Soprattutto non dimentichiamo che in nome di Eni, in nome di Leonardo, in nome di Fincantieri, si giustificano le 40 missioni internazionali che l'Italia ha in questo momento in tutti gli scacchieri internazionali. Missioni che soltanto sul bilancio del 2022 si prevede una spesa superiore al 1,1 miliardi di euro. Non dimentichiamoci che il ministro Guerini ha già premesso che indipendentemente dal conflitto in Ucraina l'Italia rafforzerà la propria proiezione militare in quello che definisce il Mediterraneo allargato. Il Mediterraneo allargato è un'area geografica che va dall'Oceano Atlantico al Medio Oriente, che riguarda tutto il Mediterraneo e che riguarda soprattutto il continente africano. Continente africano dove a partire dallo scorso anno abbiamo due nuove missioni estremamente pericolose, estremamente drammatiche e estremamente costose, in Niger e in Mali. Pensi che la guerra in Ucraina aumenti il rischio di uno scontro aperto tra Russia e blocco NATO-USA verso uno scivolamento in una nuova guerra mondiale? Io questo lo ritengo dal primo giorno, dal 24 di febbraio di quest'anno. E ogni giorno che passa la metodologia, il modello culturale, il linguaggio che viene utilizzato, l'indottrinamento, l'avvelenamento del dibattito politico anche nel nostro paese, credo che stia operando in funzione di un'escalation del conflitto, un conflitto che, ripeto, può diventare realmente globale, può diventare totale, può estendersi geograficamente, ma soprattutto che può diventare nucleare. Il fatto stesso che da una parte o dall'altra si minacci o si lascia intendere la possibilità di utilizzare anche armi nucleari tattiche in questo conflitto è la dimostrazione che abbiamo già superato abbondantemente i limiti di qualsiasi logica e pertanto dovremmo veramente estremamente preoccuparci di un'estensione di un conflitto che già ci vede di fatto in prima linea. Lo dicevo poco fa, la frontiera italiana si è spostata veramente a ridosso dell'Ucraina, della Russia e della Bielorussia per il suo intervento e per la sua proiezione armata aggressiva. E credo che sia arrivato veramente il momento di una grande mobilitazione di massa per impedire che questa guerra si estenda e soprattutto per imporre immediatamente un cessato al fuoco. C'è stato poco che è il primo passo realmente di un processo reale di pacificazione e di dialogo. In questo conflitto che stiamo vedendo, il ruolo specifico che ha assunto l'Ucraina è un ruolo che la vede anche svolgere una guerra per procura di qualcuno che sul teatro delle operazioni non è in questo continente, cioè gli Stati Uniti d'America. Questo modo, soprattutto in presenza di un'Europa che se ne parla ma che non esiste, credo che debba essere preso in considerazione. Assolutamente, sono perfettamente convinto che questa è un'ennesima guerra per procura, una guerra che ovviamente avvantaggia enormemente il capitale statunitense, soprattutto di quei gruppi economici, sia che riguardano il complesso militare industriale, ma soprattutto di quelli che controllano il sistema di approvvigionamento energetico. Di fatto questa pseudo diversificazione anche dell'approccio energetico rafforzerà enormemente chi controlla il petrolio e chi controlla il gas negli Stati Uniti. Ovviamente questo anche a vantaggio di un rafforzamento geostrategico e geopolitico degli Stati Uniti d'America. Dopo gli anni di Trump, gli Stati Uniti riguadagnano un'enorme leadership intanto all'interno della NATO, ma di fatto fanno anche sparire la possibilità che ci sia un minimo di autonomia da parte dell'Unione Europea. Mai come oggi l'Unione Europea e altri paesi dell'Europa che non ne fanno parte e di fatto sono diventati totalmente subalterni agli interessi di Washington, agli interessi del capitale finanziario statunitense.